Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la terza parte di Eclettica di questa settimana, che è la numero 11 per la precisione, proseguendo con la precisione della stagione numero 13 in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM. Giulio è radiorockfm.com e questo l'indirizzo di mail a cui scrivere, anche per iscriversi alla lista nera di Eclettica, ma non solo, e poi myspace.com/eclettica, dove l'indirizzo di mail è destinato ai dialoghi uno a uno, tipicamente. Invece MySpace è destinato ai dialoghi di fronte a tutti. Erano i giorni migliori, erano i giorni peggiori. Era un'epoca di saggezza, era un'epoca di follia. Era tempo di fede, era tempo di incredulità. Era una stagione di luce, era una stagione buia. Era la primavera della speranza, era l'inverno della disperazione. Ogni futuro era di fronte a noi, e futuro non avevamo. Diretti verso il paradiso, eravamo incamminati nella direzione opposta. Questo era l'incipit di Una storia tra due città, di Charles Dickens. Side by side, Non nasconderti! È inutile! So chi sei ormai. Ho letto il tuo nome. Carlo. Finished Idea Number 209, il brano che ci siamo ascoltati da Fledgling, l'album di Jacob's Stories, il brano che ce lo sta facendo conoscere questo album, ma sicuramente non rimarrà il solo nelle playlist di Eclettica. Vedrete che fra poco ne compariranno anche degli altri. In apertura di Eclettica invece quest'oggi un disco che vede l'occhio di bue puntato sul basso, è un disco non tanto di canzoni quanto di bassi. È un disco di un bassista. Sapete, i bassisti sono un po' disoccupati con i tempi che corrono, con tanti gruppi senza basso, e quindi si è deciso a fare un disco che ruota attorno al basso. La voce non è eccelsa, però il basso prende sempre le viscere. Lui si chiama Joe Lally e appartiene ai Fugazi, che dal 2003 hanno deciso di prendersi un periodo sabbatico che non è ancora chiaro fino a quanto durerà, e quindi lui si è dedicato a questo There to Hear, dal quale ci siamo ascoltati proprio il brano che gli dava il titolo. Vi ricordo ancora una volta, ed è l'ultima, le date dei concerti che questa settimana vi permetteranno di andare a vedere, gratuitamente, grazie ad Eclettica. John Fox, 1 dicembre al Transilvania di Milano, 1 dicembre allo Zero Music Club di Azzano San Paolo Bergamo Molteni, 2 dicembre al Covo di Bologna Two Gallants, 4 dicembre al Transilvania e 8 allo Zero Music Club per quanto riguarda i Super System. Per vincere tutti questi biglietti siate veloci a scrivere a giulio@radiorockfm.com. Ora dovrei avervi preparato un altro disco, vero? Ah sì, è uno di quelli anche oggetto di pillola di questa settimana. Da Nashville, Tennessee, Courtney Tidwell con Missing Link. Thank you. A volte la continuità delle scelte musicali di Eclettica è data dalla etichetta, dalla label Ever, che ha come slogan Music Forever, Take Your Time. Ci siamo ascoltati in sequenza due dischi, quello già precedentemente annunciato di Courtney Tidwell e poi Sign and Ben con Words, un estratto dal loro ultimo album di cui tante volte abbiamo parlato. E le cose appena dette mi permettono di riallacciarmi due volte a MySpace, una per quanto riguarda le etichette, per esempio come commento all'ultima playlist inserita nel blog c'era il commento di Giovanna che diceva: ma perché nelle playlist non aggiungi anche l'etichetta? Un'informazione che può avere i suoi motivi di importanza, come lei dettaglia meglio, andate a leggervi la cosa se vi interessa. Ci penserò sopra, poi vedrò sicuramente il da farsi. E poi hanno cominciato a comparire, dietro mia richiesta, un biglietto, una recensione, appunto le recensioni di una serie di tour, quello di Ramona Cordova e quello degli Arab Strap. Il primo per cui eravamo partiti per questa cosa ancora mancava, quello di Sign and Ben che ci siamo appena ascoltati, ma vedrete che in queste ore compariranno alcune recensioni che sono arrivate con ritardo. D'altronde io non pongo limiti di tempo, delle date limite entro cui farmi avere il materiale, quindi mano a mano che arriva viene pubblicato su MySpace. Ora ci trasferiamo ad una nuova etichetta, ci trasferiamo alla Tom Lab, di cui già abbiamo ascoltato in settimana The Blow, un disco che mi convince molto di più rispetto a quello di A Will Power, e questo è il nome dell'artista in questione, un disco dal titolo PDA, Public Display of Affection, in cui Will Schwartz è in missione per impadronirsi del dance floor in tutto il mondo. Lui dichiara così e dichiara anche un'altra cosa: se Usher e Justin Timberlake avessero un background indie, di certo sarebbero Hey Will Power. Modesto, signore, a voi il giudizio. 100 Air. There is so much you never know. I think I have to let you go.